sa, prova. Ma perché poi dicono tutti sa? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Oggi riunione di famiglia. C'è Giovanni Capuano. Oh, eccomi. Aspettavo anche Pierluigi Pardo, che però si è dato alla macchina all'ultimo momento. Lo so. Però come qua. Mi senti? Come mi senti? Guarda, come se fossi qui. Strappa un po'. L'unica Capuano, cosa. Ma tu proprio a scuola eri proprio il classico del primo banco che stava sì, lì. Sì, assolutamente. Noi invece ultimo vicino alla finestra. Devo dire, non proprio teppista. Ero proprio, ero il classico proprio casino forever. Quindi tutti i miei problemi, diciamo, di condotta li ho avuti essenzialmente perché cazzeggiavo, facevo battute, prendevo in giro qualche professore, ma così bonariamente. Approfitto per salutare i superstiti e mandare mazzi di fiori come ha fatto Roberto Mancini. Sono giorni molto nervosi, prima si colpisce e poi si chiede scusa a tutti, tanto le scuse sono gratis. Mazzo di fiori a Michaela Calcagno e tapiro d'oro incassato con un sorriso molto tirato in realtà, così. Ma in Inghilterra, se lei avesse fatto un gesto così, l'avrebbero cacciata? Non l'avrei fatto in Inghilterra. Non avrei subito prima gli insulti, quindi non l'avrei fatto. Si è arrabbiato quindi perché la tribuna la insultava? No, in Inghilterra non si sarebbero alzati quelli a insultare, quindi io non avrei fatto il gesto e comunque ho chiesto scusa. Suo figlio, se avesse fatto così a scuola alla maestra, cosa avrei fatto? Gli avrebbe tirato tre schiaffi? Sì. Beh, come è successo ieri, insomma, occhio in croce. Capito? Capito. Beh, non era quotato il tapiro a Mancini. Non si accettavano scommesse. Ma poi siamo sicuri che in Inghilterra sono davvero diventati così, tutti quanti così ligi allo spettacolo. Ma io credo che l'unica cosa vera che dice Mancini è che se qualcuno si alzava in Inghilterra aveva chiuso la stagione almeno da tifoso, perché questo insomma è il modello inglese. Poi è del tutto evidente che Mancini, ma da ben prima di Natale, quindi non è una questione legata ai risultati, vive la stagione sull'orlo di una crisi di nervi, lo ha fatto già in altre occasioni. Adesso evidentemente le cose stanno anche andando un po' così in campo e quindi io credo che questo giro di riposo, di silenzio, oggi non parla, parla ausilio, in fondo fa bene anche a lui. Credo sia un vantaggio per tutti, anche per l'Inter. Sì, vantaggio per tutti, anche per l'Inter. Sì, Mancini ha superato l'orlo, Pierino? Sì, ma io credo nel ricordare Ernesto Bronzetti, mi sembra chiaramente il primo pensiero che viene in mente in una giornata come questa, che poi alla fine, a costo di sembrare buonista e di farmi prendere in giro da Cruciani, poi conta capirsi, conta spiegarsi e riconoscere i propri errori. Non esistono persone che non sbagliano, ma esistono le persone che chiedono scusa e che lo fanno magari con più eleganza, le persone che non riconoscono gli errori. Quindi alla fine non c'è alternativa, insomma, capito? Non c'è alternativa. Certamente Mancini l'altro giorno non ha fatto una bella figura, sicuramente questa figura è stata complicata dal fatto che qualche giorno prima si fosse messo lui a fare tra virgolette il moralista, anche se su una questione di tipo certamente diverso, però la vita va avanti, insomma. Sì, però sai qual è secondo me il tema? Il tema non è tanto che Mancini abbia sbagliato, perché poi si può discutere che non ci debbano essere tifosi ad insultarti, si può discutere se la domanda ti piaccia o meno, sia più o meno calzante. Il problema è che i professionisti della comunicazione e gli allenatori e i calciatori lo sono, quelle situazioni lì devono essere in grado di gestirle. E se non lo fai, questo è la spia di un malessere, di un disagio. E io credo che sia questo il problema su cui ci si deve, secondo me, interrogare oggi. Non tanto che Mancini poi si accorga di aver sbagliato e chieda scusa, si prenda la squalifica e stia zitto. Sì, ma il tema è perché è così da 2 o 3 mesi? Perché vai in televisione a dire agli arbitri almeno una volta fate gli onesti? Che anche quella, ed era novembre, l'Inter era prima in classifica, ma anche quella era una cosa che tu non ti puoi permettere da persona che sa di essere sotto i riflettori. Poi capita a tutti, no? Anche a te Pierluigi, continuamente di dover per ragioni professionali fare una domanda che può non piacere all'interlocutore, non dovrebbe esserci nessun problema. Ci, Ma questo ci sta, ma questo ci sta. In generale ci prendiamo troppo sul serio, questo è evidente. È chiaro che l'adrenalina è una brutta bestia. Sicuramente le interviste a caldo vivono di una logica molto diversa. Io credo che il calcio sia un mondo abituato a un tipo di linguaggio molto diverso, per esempio, alla politica. Rispetto alla politica, per esempio, no? Nella politica le bordate, il tipo di dibattito è molto più aspro in certi momenti. Al calciatore siamo abituati a fare delle domande col massimo dell'attenzione, col massimo della diplomazia. Anche e spesso con l'ufficio anche stampa a fianco, sono molto, anche con, e invece lì magari non capita in quel momento. Ma sì, ma perché secondo me ci prendiamo troppo sul serio, perché magari in questo momento il fatto che Zeman, faccio un esempio sulla puntata di ieri, abbia detto che Pallotta secondo lui capisce poco Roma, questa frase va sui giornali, ma può destabilizzare un ambiente, con tutto rispetto per Zeman, che comunque è un'icona, sono ma voglio dirti, se un ambiente è forte, se una squadra è forte, non può essere la battuta di un allenatore che oltretutto insomma non ha neanche poi vinto, non è Mourinho per l'Inter, capito, che ti può destabilizzare. Quindi ti ho fatto questo esempio perché il primo che ho in mente, ma qualsiasi cosa viene vissuta come un dramma. Invece la verità è che questo è un gioco chiaramente pieno di adrenalina, pieno di passioni, un gioco pieno di soldi, pieno di importantissimo, interessi, ma rimane un gioco e questa roba qua poi alla fine si scende in campo e chi è più bravo vince mediamente, al netto del culo, al netto dei 3 centimetri del palo, dell'episodio arbitrale, ma questo dovrebbe essere lo spirito, no? Quindi il resto francamente mi scalda poco. C'è un'altra voce che voglio farvi sentire prima del traffico, ed è Allegri, che ha parlato oggi, vigilia della partita con il Genoa, oggi come se fosse sabato, abbiamo tutte le voci di conferenza stampa, poi ve le snoccioliamo piano piano, però una battuta di Allegri è dedicata a un altro tema che appassiona moltissimi tifosi juventini, questo confronto con Conte. Innanzitutto è un confronto improponibile, poi dopo tra l'altro non ce n'è confronto, perché Antonio ha fatto 3 anni alla Juventus straordinari, vincendo 3 campionati, record di 102 punti, fatto 3 anni straordinari dopo 2 anni che la Juventus veniva da 2 settimi posti, quindi credo che ci siano i meriti suoi, i meriti dei giocatori, i meriti della società, come sempre esiste nel mondo del calcio, i meriti non sono mai né tutti di uno né tutti dell'altro. Così Antonio Conte, mentre ha parlato Insigne del confronto con la Juventus, cominciando a guardarlo un po' da lontano, 13 di febbraio. No, si sa che la favorita è sempre la Juve, ha vinto 4 scudetti di fila e sono loro i favoriti. Noi stiamo facendo il nostro campionato e ora pensiamo mercoledì, che sicuramente sarà una partita molto difficile a Roma con la Lazio, e facciamo il nostro campionato. Ma Dybala te l'aspettavi così forte subito al primo anno alla Juve? Vabbè, lui si vedeva già a Palermo che aveva talento e lo sta dimostrando in una grande squadra come la Juve. Non sono io a scoprirlo, ma si vede che è un grande giocatore. Tutti convocati. Tutti convocati. Non sono contento, ma non sono contento per le prestazioni di qualche giocatore, perché secondo me devono fare di più, devono andare di più, perché le partite queste qua si vincono anche per la classe e la qualità dei giocatori, quindi devono fare un po' di più. Ha usato parole razziste. Io mi sono alzato solo per chiedere al quinto uomo, al quarto uomo, per come mai 5 minuti di recupero. E lui ha iniziato a inviare contro di me, poi a un certo punto urlando, dicendo frocio, finocchio. Cioè, io sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo. Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Si deve vergognare, 60 anni. Il quarto uomo era lì, ha sentito, non ha detto niente. Questo perché il Cappi difendeva bene, cioè stavano tutti lì, e quindi quando sono tutti lì, se tu non riesci a girarli, è chiaro che fa un po' di fatica, però le 2 palle che abbiamo avuto per chiudere, cioè, sono state clamorose. Se giocavo io a 50 anni forse facevo gol. Quindi ho fatto il didometri mentre uscivo, perché ho preso degli insulti e quelli non potevano essere lì, perché dovevano esserci gli steward a tenerli dietro, quindi uno deve essere lì a insultare, a dirmi tutte le parole, quindi in un momento così l'ho fatto. Contenta? No, io glielo ho chiesto. Allora, se vi devi fare delle domande per far polemica, facciamo. Io no. Ho detto, ho risposto. No, ma siccome c'è una cosa che gira su tutti i social, è giusto anche chiedere. Ho detto che l'ho fatto. Gli ho detto, ecco, che l'ho fatto. Cosa ho detto? Va bene, ok, volevo solo. Ecco, allora basta, ho detto che l'ho fatto, fine del discorso. Va bene, ok. Ecco. Ok. grazie. Grazie, grazie per essere stato con noi, grazie. Cagate. Quindi un rapido riassunto sonoro del Mancini. Su una cosa oggi abbiamo la prova visiva. Pier, non so se l'hai vista, Mancini avrebbe segnato i gol sbagliati da Icardi contro il Carpi. Gira questo video, l'ha postato l'Inter su Twitter, con Mancini in allenamento che fa un pallonetto meraviglioso a 50 anni all'incrocio dei pali. Eh beh, ma lo farà anche a 60, 70. Sì, eccetera, sì, sì, ma quindi quella non è una battuta. Senza esagerare. Io penso che l'approccio che Mancini all'inizio della sua carriera, oggi secondo me chiaramente ha molta più esperienza e quindi ne ha visti di tutti i tipi, ma il tipo di approccio che lui ha avuto è un po' da calciatore superiore. Io non l'ho mai nascosto, Mancini era il mio mito da calciatore, cioè se io ti dire il calciatore che ho amato di più da un punto di vista tecnico, io penso al Mancini della Samp, che era veramente una cosa fuori dal mondo. Poi chiaramente Baggio ha avuto dei risultati soprattutto in nazionale nettamente superiori, Zola è stato un fenomeno, Totti è fantastico, Del Piero quello che volete, però insomma io quando ero pischello, un po' perché ce l'avevo a Fantacalcio, ed era Mancini, era folle, era pazzo, ma era meraviglioso, sì. Cioè, delle volte quando era in giornata che secondo me accarezzava il pallone come nessun altro. Quindi e questo tipo di tra virgolette di complesso di superiorità, secondo me lui all'inizio della sua carriera un po' ce l'ha avuto, ogni tanto magari gli torna, perché detto questo, era così anche da calciatore, la clip che abbiamo sentito, ci racconta sicuramente di una fase complessa. Ecco, in questo momento io penso che Roberto Mancini, con tutta la sua esperienza, abbia detto: stiamo calmi, stiamo fermi, usciamo un attimo da questa tempesta che si è abbattuta, perché sicuramente non c'è stata lucidità nelle ultime dichiarazioni. No, non c'è stata lucidità, ma non sono neanche polemiche funzionali ai meccanismi della squadra, come era solito fare Mourinho. Chissà come la pensa Paolo Condò. Buongiorno Paolo. Ciao a tutti. Come ciao, stai? Ciao. Tutto bene. Beh, intanto sul Mancini giocatore, questa nota, la cosa dell'ambiente la penso come Piero, addirittura meglio, nel senso che era molto carina la cosa postata oggi su Twitter, sì. Perché insomma tu vedi proprio il tocco non morirà mai, appunto a 90 anni sarà ancora in grado di farlo, e non era una battuta quella che a 50 anni avrebbe fatto quel gol al Carpi, l'avrebbe fatto sicuramente. Ecco, detto questo, Mancini e ribadisco che fra gli allenatori di calcio è uno di quelli a me più amici, proprio da tanti anni, e non è che non sono più suo amico per quello che sta facendo in questi giorni, anzi, come avete visto, l'ho rivendicato ieri su Twitter, perché gli amici si vedono nel momento del bisogno, sì, chiaro. E questo è un momento del bisogno per Roberto, non c'è dubbio, perché non l'ho mai visto così. Ragioni? Ma insomma, sai, le ragioni possono essere tante, anche di vita privata, insomma, sappiamo che esiste un divorzio molto doloroso in corso, e io credo che questo non lo stia lasciando tranquillo. Ma detto questo, ci tengo a ribadire, perché secondo me gli amici devono anche saper dire uno quando sbaglia, e Mancini ha sbagliato profondamente su tutta la linea. È stato scortese, non me ne frega niente se la domanda era giusta, sbagliata, intelligente o cretina, non si può reagire così, io poi sono molto all'antica da questo punto di vista, non si può reagire così in una intervista, e non si può reagire così davanti a una donna. Io su questo sono molto netto, ecco. E quindi ha sbagliato, ma insomma lui lo sa perfettamente, è una persona intelligente Roberto, lo sa perfettamente di aver sbagliato a fare quel gestaccio, a fare quella cosa. E diciamo che non c'è poi nessuna sorpresa in tutto quello che è accaduto in questi giorni, perché al suo errore, che naturalmente ai suoi errori dell'altra sera che sono venuti, qui stiamo parlando di comportamento, poi se vogliamo ci mettiamo anche a parlare di come sta allenando l'Inter, però qui il tema centrale che più mi sta a cuore è quello del comportamento, e nel momento in cui, dopo tutto quello che era successo a Napoli, è scoppiata questa cosa, c'è stata la conferma ai miei occhi, sia all'interno dell'ambiente che fuori, che Mancini comunque non è mai riuscito, e questa probabilmente è anche colpa nostra, che lo abbiamo raccontato nel corso del tempo, non è mai riuscito a bucare una certa coltre di diffidenza sta antipatico a tanti, ma da parte di colleghi ho sentito degli interventi veramente di una durezza e di una cattiveria che mi hanno lasciato colpito, insomma, non sorpreso. Ma secondo te, Paolo, anche da calciatore, lui ha un certo tipo di atteggiamento che nasce, Pier lo conosce, che nasce dalla timidezza sostanzialmente, cioè lui non è una di quelle persone che impongono la propria personalità in un dialogo e così via. Poi è chiaro che con l'esperienza che si è fatto ormai, sia da giocatore che da allenatore, ne ha talmente tante da raccontare che poi per forza di cose stai anche ad ascoltarlo. Però è una persona, è uno di quelli che appunto maschera una volta la timidezza con un'aggressività. Paolo, ma secondo te si stanno creando le condizioni ambientali? Lasciamo stare quelle di risultato, tecniche, perché a Mancini venga davvero la voglia a fine stagione di staccare con l'Italia? A me ricorda, ma ricorda non adesso, ricorda qualche settimana, da prima di Natale, lo dicevamo prima, anche un po' la parabola della seconda e ultima stagione di Mourinho, e prima della valutazione che l'Inter stava arrivando al top e non avrebbe mai potuto ripetersi, c'era che Mourinho aveva rotto completamente gli argini con tutto ciò che gli stava intorno. Sì, però c'è una differenza profonda tra, è vero, ma c'è una differenza profonda tra le mille polemiche di Mourinho quasi quotidiane e questo momento di grande nervosismo di Mancini, no, perché quelle erano funzionali alla gestione. Questo è tutto il contrario. Questo è tutto il contrario di una polemica studiata. In questo momento Mancini non è carnefice, è vittima del suo nervosismo, quindi questo non giustifica. Io sono perfettamente d'accordo, sottoscrivo parola per parola quello che dice Paolo. Devo dirti anche che lo scorso anno, quando Mancini era tornato all'Inter, insomma, i feedback che mi arrivavano dall'ambiente nerazzurro parlavano di un allenatore molto più tranquillo rispetto alla prima esperienza, molto più rilassato, molto più risolto, molto più calmo, nel bene e nel male, perché ci sono dei momenti in cui la calma è una virtù sicuramente che dà fiducia, ma in certi momenti può portare anche un certo tipo di appagamento. E mi era arrivato proprio questo segnale di un allenatore normalizzato da questo punto di vista, e invece adesso improvvisamente nel giro di pochi giorni abbiamo visto l'esatto contrario di tutto questo, e quindi è sorprendente. Forse la chiave, senza fare tiki spy, perché non ce n'è bisogno, forse la chiave della vita personale è una chiave che non può essere sottovalutata. Sì, ma anche quella del campo, anche quella del campo, perché guarda, ma che sì, però Pier, guarda che ha un fardello pesante sulle spalle, cioè l'Inter è un momento determinante, non può far altro che arrivare terzo, se no è un crack che rischia di compromettere il futuro, perché abbiamo detto molte volte, in questa stagione hanno giocato un po' all-in all'Inter. Quindi io credo che anche questo possa pesare. Ancora una cosa voglio chiedere a Paolo Condò. Invece il Mancini che sta gestendo l'Inter, il Mancini allenatore, secondo molti, ne parlavamo ieri più o meno con ascoltatori e ospiti, non è diventato una pippa, un buon allenatore, un grande allenatore, ma sta gestendo la squadra un po' al contrario. È in un momento di visibile difficoltà, di visibile confusione, e ti dico che è un bravo allenatore come io penso, ne deve uscire, nel senso che ciascuno di noi nella sua professione si è trovato davanti a dei momenti di difficoltà nei quali, per vari motivi, senza andare a sindacare quali, non riusciva a concentrarsi, commetteva degli errori e così. E ti fermi, prendi un bel respiro e riparti, anche perché voglio dire, ha un ruolo e un'importanza, la squadra che guida ha un'importanza tale per la quale, se meriti di allenare quella squadra, devi essere in grado di uscire da questi ruoli. È chiaro che in questo momento, io al suo posto adesso sceglierei veramente 11, massimo Bravi. 12 giocatori. Anch'io. E andrei avanti con Anch'io. Quella squadra, perché il mal di testa che è venuto a tutti quanti dopo queste, cosa sono, 20 formazioni in 22 partite, è totale. Però anche su questo non dimentichiamoci che fino alla sconfitta con la Lazio eravamo tutti quanti ammirati dalla sua capacità di camaleontica, certo, avevamo visto qualcosa di nuovo. Quindi, voglio dire, ai tifosi non dico nulla, ai tifosi, poi soprattutto quelli di altre squadre, che gli sta sulle palle Mancini per tanti motivi, per carità, sono libero di dire quello che vuole. A quelli che fanno il nostro lavoro, io dico, cerchiamo di ricordarci cosa abbiamo detto, scritto fino a un mese fa, ma per avere un minimo anche di coerenza. Questo è verissimo. Questo è verissimo però anche, almeno per quanto mi riguarda, ci riguarda, che che l'Inter, è chiaro che tu, una squadra che è in testa alla classifica, non puoi non parlarne bene, no? E quindi no, ma la che capacità... avevamo dei dubbi, certo, certo, sono stati ecco, avanzati cioè, dei dubbi. Noi dei dubbi, tempo. Onestamente, sì, mai come in questo caso ce li abbiamo sempre avuti. E questo, secondo me, oggi rappresenta il problema per Mancini, che ha ancora assolutamente tutte le possibilità di andare in Champions. Però se io guardo in questo momento, dal punto di vista tecnico, l'Inter è perché non c'è il gioco, capito? Non, cioè, è difficile aggrapparsi oggi a qualcosa. Non c'è anche perché ci sono tanti giocatori. La formazione che ha fatto per il derby, alla fine era delirante, perché comunque tu metti davanti quattro giocatori offensivi che sai benissimo che non ti copriranno, se non magari nella prima fase quando sono ancora freschi, e dietro hai messo i quattro difensori più difensori che hai, perché se fai il ragionamento, c'ho tutti i centrocampisti e gli attaccanti che non rientrano, almeno ho la difesa bloccata. Se tu consideri che Medel sostanzialmente è un difensore aggiunto al centrocampo, c'era un centrocampista in campo, solo Brozovic. Sì. E questo non può essere, però vuol dire, non essendo pazzo, anche se magari è in un momento di confusione, quello che viene in mente a me, queste ripetute panchine di Icardi per esempio, ecco, quello che viene in mente a me è che non dimentichiamoci mai, non vale per Mancini, vale per tutti gli allenatori, che gli allenamenti li fanno loro e sono loro che vedono come reagiscono i giocatori. Per esempio, quando è venuta fuori la storia di Santon titolare, che fino al giorno prima cercavano di venderlo, e credo che anche ieri ci sia stata qualche telefonata per venderlo, ma come fai a mettere Santon titolare in un momento del genere, quando inevitabilmente c'ha la testa diretta da un'altra parte? E Bergomi, vicino a me, in trasmissione, ha detto una cosa che probabilmente era quella più sensata, che essendo l'unico di quell'ambiente a venire dal settore giovanile, era quello che aveva la rivalità del derby con il Milan nel DNA, l'unico di quella squadra quasi completamente straniera. C'era un ragionamento diverso, quindi in quel momento lui può aver sentito il bisogno di avere dentro la squadra qualcuno che sentisse la rivalità col Milan. Non so se è giusto, sì, però sì. Era un'idea intelligente. Poteva essere un ragionamento, certo. Ecco, poteva essere un ragionamento. Può darsi che sia successo questo. È chiaro che la madre di tutte le domande per quanto riguarda la costruzione dell'Inter, ecco, che gliel'ho fatta anch'io tante volte, è che insomma tu avevi in testa l'anno scorso di costruire questa squadra su un grande regista internazionale come Yaya Touré. Ecco, è possibile che una volta saltato il trasferimento di Yaya Touré hai cambiato completamente indirizzo tattico, convinto di poter, non dico vincere lo scudetto perché quello non l'ha mai pensato, però arrivare terzo, e fa ancora in tempo ad arrivare terzo, esclusivamente col muscolo, esclusivamente con la forza fisica? Perché sostanzialmente lui dovrebbe fare, che ne so, 10 gol di testa sul calcio d'angolo. Beh, chiaro, è chiaro. Ha cambiato completamente il progetto della squadra che aveva in mente, perché il primo giocatore che aveva chiesto a Turenno non sono stato in grado di prenderglielo. Paolo, io ti ringrazio moltissimo. Alla prossima. Ciao Paolino. Grazie Paolo Condò. Ci fermiamo per la borsa, torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia la radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. E si ricomincia con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Magari hanno qualche altro tema da approfondire che non siano le lune di Mancini. Giovanni Capuano che con me, Pierluigi Pardo, si sente benissimo. Benissimo. Roba benissimo. Seria. Fabrizio. Salve. Buongiorno. Grande e grosso tifoso interista, purtroppo l'argomento è ancora quello lì. Uh-huh. Io ho sentito ieri tantissima cattiveria da parte di un solo giornalista, ma cattiveria anche grossa, che se mi chiamassi Mancini sarei anche abbastanza offeso. Poi dopo ci tengo a dire che in tanti anni che tengo l'Inter, gli unici che hanno vinto in tanti anni sono Mancini e Mourinho, e ne sono passati tanti di allenatori. E poi che non mi si dicano che gli scudetti vinti, a parte il primo anno subito dopo Calciopoli, che l'ha vinto con praticamente nessuno, il secondo anno era testa a testa con la Roma fino all'ultima giornata, quindi non è che era facile definire Mancini una pippa o scarso, un po' troppo. Anche secondo me, ma siamo, su questo siamo qui, i qui presenti sono tutti d'accordo. Esatto, esatto. Sono tutti sì, d'accordo. Anche se devo dire per perché vincere non è mai facile. Che quel duello lì con la Roma, sì, quel duello lì con la Roma in realtà nasceva da una società a Roma che ogni anno doveva vendere il proprio giocatore migliore. È successo con Chivu, è successo con Mancini alla diretta concorrente. Quindi in realtà io considero quello scudetto vinto, comunque vincere uno scudetto non è mai un dettaglio, ma vinto all'ultima giornata, non come una impresa, lo dico sinceramente, enorme, perché secondo me l'impresa vera l'aveva fatta la Roma, che aveva lottato praticamente fino all'ultima giornata. La differenza di budget fra le due squadre era veramente enorme. Detto questo, quindi tu sei di quelli del fatturato che se la Juve dovesse vincere in volata lo scudetto col Napoli che fattura la metà, Allegri non ha fatto una grande impresa. No, secondo me fu un'impresa anche vincere quello scudetto. E innanzitutto c'era molta più sproporzione fra quell'Inter e quella Roma di quella che c'è oggi fra Juve e Napoli. La Juve fa un altro campionato dal punto di vista delle potenzialità economiche e il Napoli non è nemmeno la seconda oggi, se vogliamo usare quella classifica. Che davanti al Napoli per potenzialità economiche ce ne sono almeno altre tre, Inter, Milan e Roma. Comunque sì, da un certo punto di vista ci sta il ragionamento, però ecco, cioè in quegli anni lì secondo me con la Juve e il Milan che erano in difficoltà per il post Calciopoli, la Roma aveva problemi veri, cioè il Napoli è una società che fattura meno della Juve, ma la Roma in quegli anni lì aveva problemi economici veri, doveva vendere i giocatori ogni anno per riuscire a risanare il bilancio, cioè questo è un dato oggettivo, non è che c'è molto da girarci attorno, quindi per me quella lì non fu una grandissima impresa. Detto questo, Mancini ha vinto ragazzi, Mancini è uno dei pochi allenatori, non sono molti, che ha vinto in Italia, ha vinto in Inghilterra, ha vinto delle Coppe Italia addirittura da esordiente dopo la famoso patentino, cioè si può discutere sul fatto, l'ho detto anche ieri, probabilmente ci sono allenatori italiani più vincenti, sicuramente più iconici, più di ispirazione per il movimento calcistico mondiale, sicuramente Sacchi, sicuramente Capello, sicuramente Ancelotti, però Mancini è un bravo allenatore, non è uno scarso, e non è che siccome adesso ha perso due partite consecutivamente questa sia diventata improvvisamente una stagione catastrofica. Questa oggi è una stagione che da clamorosa sta diventando così, che presenta delle difficoltà, è ancora in tempo secondo me per poter portare a casa un terzo posto, che sarebbe un ottimo risultato, cioè, se l'Inter arriva terza secondo me ottiene un buonissimo risultato. Sì, certamente ottiene un buonissimo risultato, che però è anche il minimo, cioè è anche quello che è stato chiesto, perché come dicevo prima l'Inter non ha molte alternative. Se sì, però voglio dirti adesso il Milan quest'anno ha speso 100 milioni, cioè tutte e due hanno speso. Che succede? Che l'Inter è partita fortissimo e il Milan è partita piano, per cui adesso improvvisamente se l'Inter non arriva terza è un fallimento. Ma in realtà ad oggi l'Inter ha 5 punti più del Milan, secondo me sono due squadre che per valore economico, fatturati e investimenti sono lì. Quindi adesso non è che improvvisamente l'Inter è diventata un fallimento e il Milan è diventato, perché poi se no torniamo alla famosa frase che dico sempre, il calcio è materia non liquida, proprio aereiforme, no? Questa è la verità. Detto questo, secondo me le nuvole dense che ci sono sull'Inter sono legate a quello che dicevamo prima con Paolo, cioè che questa squadra qui, anche quando ha vinto, non è che ha vinto forte di una qualità di gioco, ha vinto grazie a un'idea, grazie a una grande solidità, muscoli, centimetri, concedere poco. Medel non a caso uno dei giocatori più importanti in questo scacchiere. Miranda è uno stopper prestato al centrocampo, certo, e poi era una squadra fisicamente. Se non c'è uno scatto dal punto di vista della qualità della manovra, l'Inter rischia di non arrivare terza, secondo me. Io saluto e ringrazio. Una grande idea del Cagliari, quella di affidare il settore giovanile a un allenatore professionista molto noto, molto esperto come Mario Beretta. Ciao Mario, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Come va lì? No, abbastanza bene, dai, si lavora alla nuova idea e quindi ci vuole del tempo, però siamo cominciato e ti diverti? Procediamo. Ti diverti? Diverto, sì, c'è un sacco di lavoro da fare, però mi diverto. Senti, stavamo dicendo... Come si passa? Dimmi, vai. Come si passa, scusa, proprio come si passa dalla cultura del risultato al 100% alla cultura del risultato di prospettiva? Cioè, nel calcio giovanile sappiamo che è importante vincere, per carità, lo scudetto primavera, vincere i campionati di categoria, il Viareggio, però quello che è più importante è come Sanremo, ecco, da questo punto di vista salutiamo Enrico Ruggeri, è come Sanremo, cioè è importante vincerlo, sì, ma è soprattutto importante e utile vendere i dischi dopo, in questo caso è creare dei grandi giocatori da poter vendere o da poter utilizzare. Quindi come cambia da questo punto di vista la mentalità di un allenatore? Ma tanto bisogna vedere come uno era mentalizzato anche prima. Io è chiaro che quando allenavo il risultato era importante, ma mi piaceva costruirlo, non farlo fine a se stesso. È ovvio che è una costruzione molto più, diciamo, immediata, però la settore giovanile l'avevo fatto per tanti anni, quindi mi sono ripreso quello che, dal punto di vista della mentalità, che avevo fatto per tanti anni in precedenza, con l'esperienza però di aver fatto la prima squadra e quindi di avere ragazzi giovani che venivano su, quindi con, vedendo anche tra virgolette quelli che potevano essere i difetti di questi ragazzi che venivano in prima squadra, e di conseguenza adesso riportare tutto al settore giovanile cercando di far sì che questi difetti non quantomeno siano ridotti, ecco. Ecco, mister, stavamo parlando prima anche con Paolo Condò di problemi di Inter e di altre squadre italiane, ma soprattutto segnatamente dell'Inter, e a noi profani, non tecnici, viene in mente l'idea più semplice, che qualche volta funziona: scegli un modulo, scegli 11 giocatori e vai con quelli in modo da dargli la serenità per giocare, anche eventualmente lo spazio per sbagliare o per entrare in forma, e per creare dei meccanismi e degli automatismi. In fondo mi sembra che anche Sarri, Allegri e alla fine Mihajlovic abbiano fatto così. Mancini no. Sì. È sbagliato quello che dico? No. La scelta di un sistema di gioco per dare delle certezze alla squadra è un aspetto secondo me fondamentale. Scegliere un nucleo di giocatori, poi è ovvio che durante la settimana, durante il mese di lavoro si possono cambiare gli interpreti, ma credo che alla base ci sia la scelta di un sistema di gioco che si adatti di più alle caratteristiche dei calciatori. Detto questo, visto l'Inter l'altra sera e visto in altre volte dove per dire alla Sacchi aveva vinto ma non convinto, probabilmente manca così la butto lì, probabilmente un organizzatore di gioco in mezzo al campo. Cioè tu non l'avresti preso Eder avendo soltanto una fiche da spendere sul mercato di gennaio? Io avrei forse cercato un organizzatore di gioco in mezzo al campo, questo sì, perché poi la palla bisogna farla pervenire pulita davanti, poi se nella costruzione e nello sviluppo si fa un po' fatica, magari quelli davanti a loro volta fanno fatica a riceverla in un certo modo, ma vedendola da fuori era questa l'idea che mi sono fatto. Ci fermiamo un istante per il traffico, torniamo subito con Mario Beretta, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano e gli ascoltatori. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Tutti convocati. Torniamo insieme, Mario Beretta collegato con noi, Pierluigi, Beretta ha detto quello che un po' tutti sottolineavamo a proposito dell'Inter, no? Cioè, i piedi e il cervello nel cuore del centrocampo è questa la lacuna più evidente, ma mi premeva anche andare sulle altre, al duello tra Napoli e Juventus, che invece al di là dei fatturati, degli estratti conto eccetera eccetera, ci auguriamo tutti che vada fino alla fine, e le premesse ci sono, come ti ha detto anche ieri sera Insigne a Tiki-Taka, no? Sì, io volevo chiedere al mister Sarri, in cuor suo secondo me pensa di essere un po' corto come rosa, competitivo sì, come valori di punta negli 11 secondo me si sente all'altezza della Juve, ma pensa di avere forse meno alternative. Ha ragione? È questa la differenza che potrebbe pesare a favore della Juve? Beh, questo penso che sia un aspetto... sì, estremamente importante. Forse la Juve ha una rosa più ampia, di conseguenza credo che possa, per questo aspetto possa essere un po' più favorita. Dall'altra parte c'è l'aspetto della Coppa, molto importante, della Champions League, che sicuramente toglie tanta energia alla Juventus, questo di sicuro. Sì, la Coppa ce l'ha, esatto, ce l'ha anche il Napoli, però è anche più fastidiosa, con due partite in più, no. Neanche semplici, perché sì, per carità non è il Bayern Monaco, certo. Però col Villarreal devi giocare, non vinci, certo. Semplicemente perché ti però, presenti. però credo che la Champions League, senza nulla togliere Europa League, possa togliere molto di più. Se adesso dobbiamo andare, poi chiaro, per l'amor di Dio, tutti ci tengono ad andare avanti in Coppa, questo è fuori discussione. Ma a voi piace come sta preparando il Napoli, sta cominciando a preparare il Napoli questa partita? Insomma, senza girarci intorno, oggi fa la prima pagina Tutto Sport, cioè le mani avanti, mettendo insieme Sarri che dice il discorso del fatturato, De Laurentiis che parla di palazzo, cioè quest'idea pur di scaricare il peso sulle spalle della Juventus, di tirare fuori argomenti che in realtà quest'anno non hanno ragione di essere, per come è andata la stagione. L'allenatore debba parlare, se ci sono delle competenze e ognuno deve fare il proprio, l'allenatore deve parlare di aspetti tecnici, poi di fatturato ovviamente è giusto che ci parli la società, il direttore generale, il presidente o quant'altro. Se poi dopo si vuol fare il... tutti cercare di mettere pressione con i giornali in questo modo, dove vale tutto, allora la modifica va bene questo, però. Beh, ma è legittimo, legittimo comunque cercare di giocare anche con i nervi dell'avversario. Io francamente non, cioè, a me non è mai interessato, obiettivamente io andavo a guardare quella che era la mia squadra senza guardare in casa altrui. Però ognuno fa il proprio. No, ma poi è difficile destabilizzare una Allegri, società come la Juventus, Allegri, un allenatore peraltro. Come Allegri, secondo me c'è il rischio in questi giochi mentali, però, in questi mind games, di farsi male contro la Juventus. Sì, esatto, tra l'altro sì, ma no, ma in generale beh, perché... ne sa qualcosa Garcia, ne sa qualcosa Garcia, certo. Esatto. Ma anche quindi... Benitez, restando a Napoli, dopo, però dopo io la... posso prego no, dicevo, la Juventus ha un club talmente forte che è un allenatore comunque esperto e comunque che in questo momento è al top su tutti gli aspetti, che è in grado di tranquillamente riassorbire queste cose con, sì. Anzi, probabilmente magari per certezza gli dà anche qualcosa in più, una carica in più, se mai ci fosse bisogno. Cosa vuoi dire, Piero? No, volevo dire che io non so se voi avete sentito una dichiarazione vera e propria di De Laurentiis sul palazzo. Io ho visto un'immagine con dei giornalisti che gli dicevano che è il palazzo, e lui che sospirava. Cioè, adesso sono veramente, quindi vi chiedo, confesso l'ignoranza, poi magari invece ne ha parlato. A me sembra che tante volte, insomma, tante polemiche sono veramente così trascinate. Sono molto pretestuose. No, per, molto pretestuose. Così, con le, non lo so, questa è la mia idea, insomma, quindi in questo veramente confesso ignoranza, magari invece c'è una dichiarazione molto precisa, però io quella che ho visto c'era lì qualcuno che gli diceva ma che è il palazzo, sì, a che lo inzigava, come da domenica ci misuriamo, lui, con la storia delle ammonizioni preventive di Esai e Dall'Anna, il nostro però, amico Boris Sollazzo, no, che ha lanciato, a me sembra, questa roba, siccome io l'ultima volta che ho sentito De Laurentiis intervistato, che è stato durante la partita di giovedì a Castel Volturno, invece ha avuto parole di grande stima anche nei confronti della Juve, in qualche modo l'ha considerata, l'ha eletta a modello, e mi pare che anche dal punto di vista del mercato queste operazioni del Napoli sui giovani confermino questo tipo, sì, di tendenza. Ecco, forse possiamo togliere un po' di veleno laddove non c'è proprio, ecco, insomma, tutto qui. Un'ultima cosa per Mario Beretta, invece Mihajlovic camminava sui carboni, sulla brace fin dall'inizio della stagione, adesso non cammina sui petali di rosa perché Berlusconi ha detto calma, contratto, vediamo, eccetera eccetera, però qualcosa sembra essere cresciuto, spuntato, no, nel giardino di Mihajlovic. Sì, diciamo che i carboni si stanno un po' raffreddando. Sempre i carboni rimangono. Sì, sì, nelle grandi squadre è così. Tiepidi, sì, poi perché comunque il derby ti dà, la vittoria del derby in questo modo ti dà sicuramente più tranquillità, più serenità, più entusiasmo e un po' più di tempo probabilmente a disposizione. E quindi, ecco, obiettivamente, dopo la partita, dopo il derby vinto in questo modo, diciamo che può lavorare con più tranquillità, ma credo che siano state anche le dichiarazioni di Berlusconi, no? In questo senso, quindi sì, sì, sì, sì, procedere, sì, su questa strada che comunque nelle ultime, diciamo, nelle ultime partite, nelle ultime nove, mi sembra, Milan ne aveva persa una sola nell'ultimo ciclo di partite, sì, male non andato sul piano dei risultati. Grazie mister, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Grazie, grazie Mario Beretta. Allora, prima di Gianmario e Roberto, vi voglio far torno a Tiki Taka di ieri sera a casa di Pierluigi Pardo per sentire di nuovo Insigne. Anzitutto, come fa questa canzone, la canzone dei tifosi del Napoli? La cantiamo un pezzettino, io sono stonatissimo. Come fa? Ne so peggio di te. E dai, proviamo, partiamo. Come comincia? Un giorno all'improvviso. No, all'improvviso mi innamorai di te. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Ritorno nel passato e siamo ancora qua. E oggi come allora difendo la città. La, la, la. Di peggio, pardon. Ne ho sentiti di più stonati poi, di calciatori, così a cappella in televisione, beh, mica. Ma poi è bello, è piacevole, è positivo, è sano, insomma, non, a me piace quando i calciatori, insomma, si raccontano in maniera tranquilla, serena, si mettono a giocare, lo sai che è la mia indole, la mia natura, e quindi ringrazio l'ufficio stampa del Napoli, ovviamente anche Insigne, che ho trovato in ottime condizioni dal punto di vista proprio dello spirito e dell'entusiasmo, e poi chiaramente il fatto che ci fosse anche Zeman, che è stato il suo maestro a Foggia e a Pescara, insomma, ha aggiunto ulteriore affetto alla cosa. Però sì, è chiaro che insomma, poi c'era anche tutto il discorso sul fatto che a Napoli si festeggia tanto, si festeggia presto. Lui l'ha spiegato, secondo me, con una naturalezza assoluta e bellissima, insomma, fa parte dello spirito dei napoletani. Poi andrà come andrà, insomma, e alla fine vincerà la squadra migliore. Sono due grandissime squadre. E comunque rimarrà una grande stagione, comunque vada. Adesso sono discorsi un po' così, perché è chiaro che se Napoli lo vincerà saranno tutti incazzati come le furie. Però rimane sportivamente una grande stagione. Facciamo in tempo a parlare con Gianmario Dalodi? Sì, credo di sì. Buongiorno, Genta. Salve. Buongiorno, Genta. Dica. Tifoso Viola, volevo ricordare a Pardo che quando Mancini vinse la Coppa Italia a Firenze, la Coppa Italia non la vinse lui, ma la vinse Terim. E volevo ricordarvi di fare un giro a Firenze e di indagare su quello che pensano di Mancini in quella città. Tutto qua. Un'altra cosa era la cosa che più mi premeva dire, riguardo proprio alla mia squadra del cuore, è una riflessione che vi pongo sulla famiglia della Valle. Ecco, io volevo chiedervi, ma è mai possibile che questa famiglia, che tanto ha fatto per la Fiorentina, sia riuscita a non far sognare più tifosi Viola? Non vi sento mai parlare di questo. In che senso? Nel senso che ci ha tolto questa famiglia dicendo ai tifosi Viola vi abbiamo preso dalla Serie D, dalla Serie C, così, praticamente promettendoci scudetto in 10 anni, così. Poi torniamo a parlarne, perché era in programma questo momento di nervosismo di Firenze e della Fiorentina. Quanto a Mancini, mi sembra, Pierluigi, che fosse lui seduto sulla panchina quando la Fiorentina è stata assolutamente tolta. Sì, quindi finale contro il Parma. Poi, ma insomma, io ripeto, l'equilibrio, non, così come abbiamo tante volte sottolineato, e poteva sembrare no, un atteggiamento negativo nei confronti di Mancini, che comunque l'Inter non ci convinceva, non mi convinceva più di tanto quando vinceva le partite 1-0, adesso non è che improvvisamente Mancini sia diventato una brutta persona, che è un po' un pessimo allenatore, mi sembra veramente però è appunto, torniamo al solito discorso, calcio è liquido, delle cose sono successe anche importanti, anche pesanti in questi giorni, sicuramente, perché insomma l'Inter ha perso le ultime partite 3-0 e 3-0 contro Juve e contro Milan, quindi non è che non sia successo nulla, che cambino un po' le opinioni, un rovescio, però, di risultati e anche un rovescio di, credo possa avere una carriera, la carriera di Mourinho, per dire, quest'anno è stata clamorosamente negativa la stagione, non cambia. Ma rimane Mourinho e al prossimo giro ne prende altri 15. E Mancini rimane quantomeno un buon allenatore. Ecco. Sicuramente. Ciao Pier, sentiamo domani. Ciao. Mi tengo Giovanni Capuano e torniamo dopo il GR. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Convocati. Giovanni Capuano, torniamo dopo lunghe discussioni su Mancini, magari non è ancora finite perché gli ascoltatori sono particolarmente velenosi e avvelenati sul tema 80024 0024, però non dimentichiamo che oggi è il sabato del villaggio, no? giornata che poi magari giovedì ci troviamo qui a raccontare tutto il contrario. Tutto ad esempio contrario. Il carbone di Mihajlovic che va a Palermo potrebbero tornare ardenti. L'Inter potrebbe tornare a vincere terza in classifica. Terza in classifica a vincere e quindi partita. Questa è una settimana il un po' Napoli particolare. All'Olimpico, insomma. Sì, non è detto che riesca a tenere questi due punti. Perché in quel gioco psicologico, credo, faccia anche una certa differenza arrivare alla sera del 13 febbraio davanti o dietro alla Juventus. Certo lo fa. Perché la Juve in casa con le grandi è uno schiacciasassi, i numeri li abbiamo dati su 23 partite da quando c'è lo Juventus Stadium, ne ha vinte 21 nei confronti con le big, solo con l'Inter ha perso con e pareggiato l'Inese. Sempre con l'Inter, no, con le big, Roma, big. Napoli, Fiorentina, Milan, Inter, e quindi insomma è evidente che la Juventus in questi anni ha un approccio a quelle partite che è feroce. E un conto è arrivarci a Torino pensando che se anche perdi resti lì, un conto è arrivarci invece già dietro, e molto passa da domani sera, perché Lazio-Napoli è la peggiore delle partite di tutta la giornata. Sì, parentesi sulla Roma, dunque voglio farvi sentire Zeman cosa ha detto ieri a Tiki-Taka, una frase che ha fatto molto discutere. Io sono per Sensi, anche se no, ma non lo faccio per te, Rosema. Grazie mister, lo sento davvero, perché era un appassionato, era uno che stava a Roma da tempo e che capiva la Roma. Anche se sta dicendo, anche se Ballotta? No. Io penso che di Roma capisce poco. Quindi Pallotta di Roma capisce poco. Sì, Pallotta che in tre stagioni da proprietario, da patrona, ha fatto due secondi posti. Due secondi posti. Capirà anche poco, però... Però capisce, sta cominciando a capire quanto basta anche per quanto riguarda i rapporti con entità, con altre entità, no? I tifosi sono tornati in questo momento particolarmente protagonisti. Sappiamo che, secondo terrificante abitudine, anche... i giocatori dell'Inter sono stati tenuti a rapporto dopo il derby dai tifosi a capochino, e questi dicevano le solite cose: non dovete uscire la sera e dovete metterci i coglioni e non si può andare avanti così e bisogna tenere a questa maglia, tutte quelle cose insomma che fanno parte del repertorio di questi che dovrebbero essere clienti e invece vogliono diventare protagonisti, pagati peraltro, perché i loro affari sono quelli che vanno a parlare, che poi gli affari li fanno altro che uscire la sera e metterci i coglioni eccetera eccetera. Sempre sulla Roma, ma i bigliettini di Spalletti ne avrete letto oggi sui giornali? Ho lasciato un biglietto per uno a tutti i calciatori sul loro posto prima della riunione e gli ho detto di scrivermi la formazione. Le hanno scritta tutti. Tutti hanno scritto la formazione, hanno usato giocatori diversi, però tutti ne hanno scritte 11. Per cui mi hanno avallato a poter scegliere solo 11 giocatori. Diversi, mi hanno detto, tu puoi fare questo, puoi scegliere 11 giocatori, perché se qualcuno ne scriveva da 12 o 13, io ne faccio già di più. Ora fu come mi hanno detto loro. Per cui non voglio lamentele di nessun genere, perché ne faccio giocare 11, l'hanno fatto loro, lo devo fare anch'io. Se loro ne facevano già 18, io ne faccio giocare di più. Da qui in avanti, chi esce, chi entra, zitto e pedalare, perché loro avrebbero fatto in questa maniera se fossero stati nel mio ruolo. Per cui non se ne parla più di queste situazioni. Insomma, i giocatori della Roma non hanno il potere di cambiare le regole del calcio. No, però bello come esperimento, non lo so. Post conclusionato, dai, ne hanno scritti 11, quindi mi hanno detto loro che posso usarle 11, se no ne facevo giocare di più. Bisogna vedere come reggerà alle prime difficoltà, che già ci sono state, anche appunto. Per Spalletti, però anche qui sono state sepolte, diciamo, dalla vittoria col Frosinone. Però io credo che davanti, dopo il mercato, la rosa della Roma non sia più così numericamente esorbitante. Ad esempio questa sera non c'è Dzeko e deve giocare Sadiq. Che è un ragazzo, Totti ancora fuori, quindi credo che Spalletti da questo punto di vista non avrà difficoltà insormontabili a gestire 11, la stagione. Rosario, Milano, buongiorno. Buongiorno signor Genta, buongiorno signor Capuano. Io vi rubo pochi istanti perché devo caricare qui, sono col camion e devo caricare, quindi devo entrare. Allora, molti di voi, nel senso addetti ai lavori, ritengono non cruciale lo scontro diretto tra Napoli e Juventus. Io ritengo di sì, per due semplici motivi. Che è molto più facile per la Juve recuperarci due punti che al Napoli, cioè per noi, essendo tifoso io del Napoli, recuperarle un punto. Quindi credo che andare a Torino e vincere potrebbe significare veramente, insomma, l'atto definitivo, sì, e conclusivo del campionato, perché noi metteremo ancora di più benzina nel morale. La Juve probabilmente si dedicherebbe alla Champions. Bah, su questo vediamo, dubito, perché poi magari la Champions tre settimane dopo della Juve è finita, può capitare. Però l'abbiamo detto, ne parlavamo prima, dipende anche come ci arrivi, perché il Napoli a Torino potrebbe arrivarci dietro e non davanti alla Juventus. E quindi questo significherebbe che magari i punti da recuperare alla Juve non sarebbero uno, ma tre, quattro, e sarebbe tutto ancora molto più complicato. Sì, però per questo dico comunque che il 13 di febbraio. È prematuro concentrarsi sul 13, cioè domani sera per il Napoli vale quasi come una finale la trasferta a Roma con la Lazio. Sì, è indubbio, quando corri a questa velocità ogni partita può sparigliare le carte. Anche perché il Napoli, che ha tutto il girone di ritorno con i big match fuori casa, quindi tu dai per scontato già che la Juventus di terreno non ne perde. Può succedere tutto, però la Juve vista domenica oggettivamente è in uno stato di forma, è in una condizione in questo momento che credo sia ingiocabile per praticamente tutte le squadre della Serie A. Poi può succedere qualsiasi cosa. Perché a calcio si gioca, sì, in 11, c'è il pallone rotondo, tutto come quello che vogliamo, però sarebbe davvero una grandissima sorpresa, mentre, ripeto, nel calendario difficile che ha il Napoli nel girone di ritorno, con tutte queste partite complicate, gli scontri diretti, i big match, tutti fuori casa, compreso quello con la Lazio, qualcuno di quelli tu devi andarlo a vincere, sì, se vuoi restare competitiva fino in fondo per lo scudetto, e fra pensare di vincere a Torino con la Juve e pensare ad esempio di vincere a Roma con la Lazio, io so che è un po' lapalissiano, però domani sera secondo me è uno snodo importante della stagione del Napoli. Antonio Di Gennaro, buongiorno. Ciao DJ. Buongiorno a voi. Sei d'accordo con Capuano? Beh, direi di sì, anche perché la Juve fa veramente paura, però visto il livello del gioco anche del Napoli mi sembra che sia una partita aperta a tutti i risultati. È normale che domani il Napoli si può essere svantaggiato, ma la Lazio ha dei problemi, l'ha evidenziati anche in questo mercato dove non è arrivato nessuno. In difesa è arrivato un giocatore di esperienza, Bislas, ma insomma, e poi un portiere in prospettiva futura a giugno, e quindi credo che il mercato non sia stato ottimale. E adesso, rivedendo anche il Napoli contro la partita con l'Empoli, subire gol, ne farne 5, ne potevano fare anche di più con quella qualità, io dico che il Napoli questi due punti se li può tenere stretti, arrivare anche a Torino nello scontro diretto un po' avvantaggiata. È normale che quando rincorri vedi la Juve, ci poteva stare magari anche una flessione, invece questa squadra va sempre migliorando dal punto di vista del gioco e soprattutto e dei nervi anche. Nervi. L'unica cosa secondo me da valutare è che la Juve ultimamente subisce molto meno rispetto al Napoli, infatti Sarri insomma un po' in monito nonostante le belle prestazioni, e sei partite che Napoli becca gol, e quindi in questo proprio per la meticolosità e la pignoleria di Sarri, giustamente anche per dare quella mentalità, quella certezza che veramente si era riconquistata quest'anno lavorando molto sul pacchetto arretrato. Sicuro. Quindi in questo potrebbe essere indicativo. Lo snodo, sono d'accordo, è domani, perché se il Napoli vince anche a Roma con la Lazio, insomma vuol dire che questa squadra però ha dimostrato in casa e fuori di avere la mentalità anche. Ovviamente Lazio è una squadra diciamo minore, anche con le squadre diciamo più deboli, no? Le cosiddette diciamo, cosa che l'anno scorso e anche con l'anno prima con Benito aveva qualche problema, in questo è migliorato tantissimo. No? Senti, Antonio, volevo chiederti una cosa invece su Firenze e sulla Fiorentina, ma questo nervosismo che circola intorno ad una squadra che sta facendo un campionato meraviglioso, perdi una partita, fai una battuta d'arresto e cominciano a comparire gli striscioni al centro allenamento contro i Della Valle, comincia ad accendersi la polemica, e poi si accende la polemica sul mercato con Paolo Sosa che soffia un po' sul fuoco, adesso un paio di giocatori glieli han presi, non ti sembra tutto un po' eccessivo per una squadra che sta facendo un campionato strepitoso? Sì, il calo era normale che arrivasse, ha avuto un calo a livello fisico e anche i giocatori, vedi Ilicic, soprattutto Canic, hanno fatto un girone diciamo prima, fino a 2-3 partite fa veramente fantastico. Tutta la squadra, e Sosa ha lavorato proprio all'inizio, no? Quando è arrivato, ovviamente c'era qualche problematica nel senso di conoscenza dell'ambiente, di ex Juventino, diciamole tutte, queste cose potevano influire. Invece lui veramente ha lavorato a 360 gradi nell'ambiente, nella testa dei calciatori, Discorso del mercato e anche della, un po' di problematiche riguardanti i tifosi, perché aspettavano non dagli ultimi giorni, ma sicuramente dei giocatori che magari Teio è in prospettiva un giocatore importante, però ci sono delle scommesse che Tino Costa, soprattutto Zara, che è un giocatore che è ritornato, poi sul difensore, dove stavano arrivando a Lisandro Lopez, poi Mammana, sì. È arrivato Belan Juan, che è un giocatore secondo me che bisogna considerarlo come una terza scelta. E lì credo che nel momento in cui la Fiorentina era prima barra seconda, l'allenatore si aspettava sicuramente già qualcosa a livello proprio di difensori, che c'era già da agosto che questo difensore mancava nell'organico. Quindi c'è sì, poi ma tirando una riga, ha ragione Paolo Sosa, forse se dentro di sé pensa che la Fiorentina non è uscita rinforzata dal mercato, il che no, significa rischiare di essere indeboliti, perché magari gli altri invece hanno fatto qualcosa, ma sai, hanno tu corretto. Sai che il gennaio è un mercato particolare, no? Non è che possano arrivare quei difensori, diciamo un po' un completamento, una riparazione del mercato di gennaio, infatti si chiama appunto per riparare magari problematiche estive. In questo credo sia non sia rafforzata, e in virtù di questa valutazione anche Sosa ha dichiarato, ha fatto trapelare che magari anche a livello tattico qualcosa cambierà di questa squadra, perché ovviamente questo modulo che ormai conoscono tanti magari dovrà essere rimodellato, come fanno tutti gli allenatori. Mi sembra una cosa intelligente e saggia, anche perché per valutare anche quei giocatori, vedi Zara, Tettino Costa, lo stesso Teio, che magari e lo stesso Bernardeschi, perché questo nuovo ruolo a tutta fascia veramente ha incantato tutti, magari riportarlo a questo ruolo naturale. Quindi in questo dovrà valutare anche l'aspetto tattico, però credo che a livello difensivo dove mancava questa squadra e si è visto nelle ultime partite. Sì, Bernardeschi, giocatore che a me piace da impazzire. Nelle ultime partite si è visto che Kalinic non è più quello dell'inizio. Facevamo il conto domenica, ha fatto 10 gol, 9 nelle prime 13 e un gol dalla 14esima alla 22esima. Potrebbe anche pensare di far giocare un po' di più Babacar, no? Una valutazione non è una scusante, infatti Kalinic è il giocatore che magari anche nel periodo estivo non ha fatto, ne parlava anche Soto, ha iniziato prima, quindi in questo, e poi anche lo stesso Babacar è un giocatore completamente diverso come caratteristiche di Kalinic, proprio per quello che può dare alla squadra. Magari ha fatto anche dei gol Babacar, però proprio il lavoro di Kalinic, dell'unica punta nella Fiorentina per il gioco di Sosa, era fondamentale, perché oltre a livello realizzativo dava veramente un senso proprio alle manovre, a tutto lo sviluppo del gioco. In questo Babacar non c'è, quindi Kalinic era normale, ma un calo l'ha avuto anche Ilicic, l'ha avuto Borcalo un po' tutti, ma era comprensibile, era fisiologico, lo stesso certo. Vessino, no? Anche poi qualche infortunio, Vessino e Bade, che erano un po' la forza del centrocampo, e poi anche a livello difensivo, dove quando manca Gonzalo Rodriguez si vede le difficoltà, perché Roncaglia ha bisogno di un leader, e poi Roncaglia, diciamo, in prospettiva di un raggiungimento di un risultato importante, beh, Roncaglia stona un po' nella Fiorentina, non è che me ne voglio, ma penso sia tecnicamente parlo, ovviamente mi sembra era proprio lì che dovevano intervenire, dove Lisandro Lopez lo conoscevano, e soprattutto Mammana, che è un giocatore interessantissimo, perché è giovane, tecnicamente valido, e serviva a Sosa, perché è un giocatore che può iniziare l'azione, cioè anche bravo con i piedi. Quindi in questo Bellanoa non mi sembra questo giocatore che possa alzare il livello tecnico della no, difesa. Non mi sembra ci sia tutta questa differenza con Roncaglia o con giocatori comunque di quella fascia lì. Capito, cioè, se devi alzare l'asticella dal quarto posto di Montella per arrivare terzo, e hai ancora le possibilità perché ci sei terzo, però ci sono le altre dietro che non vanno fortissimo, però magari può ritornare la Roma, il Milan che ha battuto l'Inter, che adesso ha grande entusiasmo e ha trovato una compattezza di squadra. Quindi la Fiorentina qualcosina si aspettavano di più i tifosi, e poi è normale che vengano fuori certe considerazioni in virtù del fatto anche di una dichiarazione, non so se è vero o meno, dottor Cognini, in cui aveva dichiarato che magari la Champions League era un problema arrivarci per un discorso anche di investimenti. Ora bisogna capire fino a che punto è vero o meno, perché insomma per alzare l'asticella sarebbe caso, preoccupante, Antonio, sarebbe se anche la no, Champions letto, League diventa un problema. Io riporto quello che ho letto, poi bisognerà capire magari in che che valutazione stava facendo il dirigente della Fiorentina. Sì, è sì. Normale che se arrivi in Champions League ti cambia la stagione, poi ti cambia la vita. Il livello, esatto, anche dal punto di vista economico. Ti rovina l'estate se ci arrivi da terzo nella posizione della Fiorentina. No, ma è un ragionamento che poggia sui numeri, cioè la Fiorentina terza entrerebbe nel playoff non da testa di serie, significa fino al 25 agosto vivere nell'incertezza, investo o non investo. Bravo. E abbiamo visto che gli altri si sono scottati tutti, l'ultra la Lazio, ma anche il Napoli. Perché sono quei club che sanno che andranno incontro a un sorteggio durissimo, e quindi sei dentro o sei fuori, e tu vivi due mesi e mezzo così, credo sia quella la base del ragionamento. Quindi non puoi pianificare la campagna acquista a livello economico, perché se non passi il turno non ti arriva niente, quindi appunto il discorso di prepararti, di investire prima, e tanti non l'hanno fatto, hai detto bene tu, sia il Napoli che la Lazio hanno pagato dazi in questo. D'altra parte, prima dare soldi della Champions e poi vedere il cammello dei giocatori, questo è il ragionamento che aveva fatto De Laurentiis, è il ragionamento che ha fatto Lotito. Certo che, per chiudere, Antonio, la corsa verso il terzo posto è una corsa nel fango, è una battaglia di trincea. Nessuno riesce a prendere la velocità necessaria. Il mio collega qua è convinto che il Milan sia ancora in corsa. Io, nonostante la vittoria nel derby, continuo a pensarla come Barbara dello Scala. È un'altra squadra adesso, anche dal punto di vista proprio questo modulo che secondo me doveva fare dall'inizio, perché non aveva il trequartista. Mihajlović è un po' intestardito, e poi a livello così anche suo è stato intelligente con la società, ma credo anche con i calciatori, perché poi ormai, insomma, bene o male il rapporto si vede, no? Hanno valutato che questo modulo è l'ideale, perché hai compattezza, proteggi la difesa con questi due centrocampisti che a turno può giocare Bertolacci o Kuzka. Si è visto Kuzka nel derby, giocatore che può fare tutte e due le fasi. Montolivo ormai è diventato un recupero palloni, non è proprio un regista classico, però a livello di interdizione e di qualità nel recupero palla, diciamo che è molto bravo. Chi è il vero regista in quella squadra è diventato Bonaventura, perché quello che gioca sulla fascia, ma è quello che può dare proprio in là tutte le azioni più importanti. Che dette i tempi. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie davvero. Buona Antonio Gennaro, alla prossima. Ciao. Prima di passare a Pierluigi ed Enrico, io voglio farvi sentire un altro paio di voci. Stiamo a Milano? Cosa dite? Per sentire. Beh, Mancini non ha parlato, come sappiamo, è squalificato. Ha parlato Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Visto anche gli ultimi episodi, come società vi sentite penalizzati da quelli che sono stati gli arbitraggi ultimamente? Ma non siamo qui a sentirci delle vittime piuttosto che a pensare più di tanto agli arbitraggi. Quello che aveva da dire è stato detto. Le sensazioni che abbiamo avuto al termine di alcune partite erano quelle, non ci siamo nascosti, le abbiamo manifestate, e con questo non vuol dire che pensiamo che sia solo ed esclusivamente colpa di questo o di quell'altro. Abbiamo anche noi le nostre responsabilità. Quando passa un mese come quello che ha passato l'Inter l'ultimo di gennaio, con risultati altalenanti, non ci si può fermare soltanto a una considerazione sugli arbitri. Questo era Ausilio, sentiamo subito anche Mihajlović. Dobbiamo riportare subito testa e concentrazione sulla partita di domani. L'ho già detto ieri, ragazzi, quando ci siamo visti e tutto. Perciò, se dovessimo non fare bene a Palermo, nessuno più parlerebbe del derby, perché comunque si ricorda sempre l'ultima partita. Penso che con questi ultimi risultati, vittoria sulla Fiorentina, anche quel pareggio dove meritavano di vincere a Roma, vittoria sul derby, ci ha dato consapevolezza del nostro valore, che i ragazzi si sentono più sicuri, più forti e più consapevoli della loro forza. Vincere aiuta a vincere, diceva qualcuno di saggio. Per chiudere il discorso sulla Fiorentina, c'è Paolo Sosa che predica calma, ragazzi, non vi deprimete. Nella storia abbiamo avuto tantissima sofferenza. Noi vogliamo sentire non questo sentimento di sconfitto o di delusione, ma sì un sentimento, cioè tutti noi protagonisti che siamo durante la settimana di lavoro e nel campo, i ragazzi, la importanza e la gioia, l'amore che è vestire questa maglia. E credo che loro sono veramente molto importanti per farci sentire. Certo che parlare di tristezza, delusione, così, ma sì, non è terzo, terzo in classifica, è strano. È strano. Il discorso sulla corsa al terzo posto, numericamente parlando, è questo. Siamo in media piena, cioè 72-73 punti, però a differenza di quello che sta succedendo per lo scudetto, che ne dica Allegri, dove siamo 86 come proiezione, quindi siamo lontanissimi dalle cifre che aveva in testa lui, la quota terzo posto, adesso che il campionato in vetta si è cristallizzato, si sta abbassando. Perché prima c'erano 3-4 che correvano per lo scudetto, adesso insomma si sta scavando un solco, ed è il motivo per cui anche il Milan è dentro. Poi è ovvio, non ha più margini di errore, ne ha qualcuno di più la Fiorentina, ma lì il rientro della Roma è il grosso danno che si sono fatti Fiorentina e Inter rallentando in queste giornate, perché la Roma era virtualmente fuori. Oggi la Roma è pienamente in corsa e forse è la più attrezzata di tutte per arrivare a quel terzo posto. Però in potenza dal punto di vista dei numeri certamente, poi quanto al campo lo vediamo, perché le prime due di Spalletti non sono state qualcosa di travolgente. Pierluigi da Treviso, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Senta, da ieri quando ho sentito le dichiarazioni di Sarri della Juve di un altro pianeta, poi sul fatturato... Sì. Cioè, io non l'ho capita, soprattutto quello del fatturato. Cioè, non è il Real Madrid o il Barcellona che dà 10-12 milioni di ingaggio, eh? Cioè, Simeone cosa dovrebbe dire? Beh, allora? Però a livello italiano la differenza fra la Juve e il Napoli è tanta roba, eh? Stiamo parlando quasi del doppio di fatturato, più del doppio del fatturato, quindi il discorso in sé non è sbagliato, esattamente come il calcio italiano lo fa per spiegare di non essere competitivo ai massimi livelli in Europa. Il problema è che poi i primi 11, i primi 12 del Napoli sono competitivi. Se al Napoli va bene dal punto di vista fisico, di condizione, come è andata bene in questa prima metà di stagione, è competitivo con la Juve, perché la Juve non ha Higuaín. No, ma è chiaro, a livello dei primi 11 poi la Juve è più profonda, e la profondità la determina anche la ricchezza che però è un segnale di debolezza tirar fuori quel discorso. Lo faceva anche Benitez nei momenti difficili. Io non capisco, è quello il discorso che facevo prima, perché debba farlo oggi Sarri. Oggi che invece Sarri è in una posizione di forza. Sta provando in tutti i modi a levare da dosso alla sua squadra un po' di pressione. Enrico, la provincia di Milano, buongiorno, dica velocissimo. Due secondi, volevo sapere qualcosa del Torino, degli acquisti, delle cessioni che ha fatto. Grazie. Grazie a lei. Torino ha riportato a casa Immobile e questo basta, ma finché non si scioglie il nodo di capire se si ritrova il feeling con Ventura, io credo che tutti i discorsi siano all'aria. Mi risulta che Cairo continui a nutrire fiducia nel suo allenatore, l'ambiente un po' meno, basta leggere i giornali di Torino, però tutto passa da lì. E certo, e fa benissimo Cairo a difendere l'allenatore che gli ha dato così tanto nelle ultime stagioni, e che ha dato così tanto anche a quelli che adesso fanno la faccia un po' così. Chiudiamo. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Binda in redazione. Grazie Giovanni Capuano. Alla prossima. Ci troviamo alla prossima, sì. Certo, a domani noi. 14. Arrivederci ragazzi, ciao!